A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, stasera si torna in campo, domani si torna a soffrire. Tocca prima a Spagna-Portogallo aprire le danze con gli spagnoli, che sono tecnicamente favoriti, indubbiamente, ma con i portoghesi avvantaggiati da un punto di vista atletico per via dei due giorni di riposo in più, che certamente pesano, e tutto questo anticipa quello che accadrà domani sera tra Italia e Germania, con la differenza non da poco che ai due giorni di riposo in più per la Germania si aggiungerà anche la teorica superiorità di una squadra più brillante e soprattutto più completa. Stiamo sempre parlando sulla carta, ma di questo è accreditato la Germania nei confronti nostri. Ripeto, poi si vede sul campo. Quello che si vede prima sono queste famose 48 ore in più di riposo, di allenamento, di smaltimento tossine, su cui per esempio oggi si è intrattenuto Vincenzo Pincolini sulla Gazzetta dello Sport. Pincolini, lo sapete, spesso ci viene a trovare, a fare compagnia, è il preparatore atletico anche della nazionale ucraina, della Dinamo Kiev, lo è stato in passato in Russia, lo è stato soprattutto al Milan in nazionale, e quindi insomma è uno che di tempi di recupero, soprattutto per tornei come questi, se ne intende come. Magari dopo vi darò conto di una sintesi delle sue riflessioni scritte oggi per la Gazzetta. Prima volevo pensare alla suggestione, sempre aspettando i vostri interventi in diretta, come ogni giorno durante queste europee, in particolare 800 24 00 24. Ieri sul finale di programma si è scatenato un fuoco di fila discretamente esilarante, aperto da quell'ascoltatore secondo il quale Pirlo avrebbe dovuto scusarsi, se non ricordo male, a fine partita col portiere per avergli fatto il cucchiaio. Beh, sentiamo oggi cos'altro può saltare fuori più o meno in questo filone. Dicevo della suggestione, possibile, non dico probabile, ma possibile, che la finale possa essere il replay di una partita già giocata prima e già giocata magari all'inizio. Per esempio, se in finale andassero Italia e Spagna, la finale sarebbe il replay della prima partita giocata tra l'Italia e la Spagna, non la prima del torneo ma la prima del loro girone, e comunque la prima disputata da loro due in assoluto, da queste due nazionali in assoluto. Ma questo vale anche per Portogallo e Germania, che erano nello stesso girone e che è stata la partita inaugurale di quel girone, vinta dalla Germania, mentre Italia e Spagna, come è noto, pareggiarono. Ci sono fior di precedenti, non ai mondiali, ma agli europei. Agli europei, per esempio, la finale del 96 fu Germania-Repubblica Ceca, che era stata anche la partita inaugurale nel girone dell'Italia, nel girone di ferro, quello dell'Italia di Sacchi, in cui c'erano Germania-Repubblica Ceca, Italia e Russia. L'Italia batté la Russia la prima giornata, la Germania batté la Repubblica Ceca e la ribatté poi in finale con la doppietta di Birov. Nel 2004 addirittura Portogallo-Grecia fu la partita inaugurale del torneo, vinse la Grecia 2-1 e rivinse la Grecia in finale, fuori casa, perché si giocava appunto in Portogallo, con quel gol di Karisteas. E quindi seconda volta che accadde. Era già accaduto nell'88, quando Urs Olanda 1-0 fu la prima partita del girone B, vinta appunto dai sovietici 1-0, ma la finale invece, con i gol di Gullit e poi quella magia di Van Basten, finì 2-0 per gli olandesi. Questo per dire che se in finale ci vanno Germania-Portogallo oppure, preferibilmente per noi, Italia-Spagna, sarebbe il replay, sarebbe il quarto replay nella storia degli europei di una finale che è la stessa sfida di una partita inaugurale. Ho qualche numero, perché Franco Piantini da Minutre mi alimenta ogni giorno. Pensate che l'Italia è la squadra che ha tirato di più in porta in questi europei 2012. Ha tirato in porta 59 volte in 4 partite. Quindi, dato che dopo 4 partite i numeri non sono più casuali, cominciano a rappresentare qualcosa, una tendenza se non altro, allora l'Italia è quella che forse ha il gioco d'attacco, non dico più brillante, ma più produttivo, sicuro. Solo che è più produttivo fino al momento di tirare. Bisogna vedere come si tira in porta. e su 59 tiri 4 gol sono davvero pochissimi, cioè c'è una percentuale incredibilmente bassa, che è quella che è quella che fin qui ha penalizzato la squadra e l'ha costretta, per esempio, a quei supplementari che rischiano di costare cari da un punto di vista atletico domani sera. L'Italia ha fatto 4 gol con 4 giocatori diversi, e cioè nell'ordine di Natale, Pirlo, Cassano e Balotelli, e ha subito 2 gol. I tedeschi, che ne hanno invece presi il doppio, perché ne hanno subiti 4, ne hanno segnati 9 in compenso, cioè uno più del doppio, con 7 giocatori diversi, 3 gol di Gomez, 1 di Khedira, Lam, Podolski, Klose, Royce e Bender. 5 gol di questi 9 sono stati segnati nell'ultima mezz'ora, e anche questo è un dato da tenere presente, perché l'Italia, come sapete, nelle prime 3 partite ha sempre avuto un calo fisico-fisiologico nella seconda parte del match, e invece mi pare che questo non sia accaduto fortunatamente contro l'Inghilterra. Poi ci sono altre statistiche su falli, mica falli. Magari un pochino più avanti. Adesso sentirei il medico italiano Castellacci sulle condizioni degli infortunati, in particolare di Chiellini. Io di miracoli non parlerei, direi che ci sono delle componenti che vanno considerate. La prima, che siamo in una competizione importante come l'europeo. La seconda, che abbiamo la fortuna di avere un grosso staff di preparatori, di fisioterapisti che stanno lavorando molto bene. Terzo, la volontà incredibile del ragazzo, che mi ricorda un po' il Gattuso del Mondiale 2006, quando anche lui venne con una lesione muscolare e con la sua caparbietà riuscì poi a giocare. E questo era il professor Castellacci. Ma secondo lei, domanda Andrea, contro l'Irlanda non abbiamo giocato in 10 con quel Balotelli che gioca con quella supponenza? No, Andrea, per una volta Balotelli non mi pare abbia giocato con supponenza contro l'Irlanda, che poi mi sembra un po' superato. Ah beh, se è l'Irlanda sì, forse allora se non avevo letto bene, io pensavo che fossimo rimasti all'Inghilterra. Sì, con l'Irlanda si può discutere. Se invece parliamo di Inghilterra, ha giocato 120 minuti, certamente di buon livello, e battendosi mi sembra come era giusto battersi. Il problema è diverso, è che in quei 120 minuti ha avuto 4 occasioni direi ghiotte, così a grandi linee, e ne avesse trasformata una. Se ricominciate, Daniele, questo messaggio, se ricominciate con le scuse di Pirlo, telefono per sapere del mercato della Provercelli. Questa è carina, indubbiamente. No, la prego comunque, il mercato a Provercelli, lei può chiamare, sapere in partenza che non sarei particolarmente documentato, ma mi diverte molto il genere di minaccia. Vediamo oggi, vediamo in che forma siete, vediamo se c'è qualcuno che ha il colpo di trovare il leitmotiv della giornata, no? Cercando di non essere, però, per cortesia, originali davvero ad ogni costo. Alessandro Vittorio Veneto dice che ha trovato un'altra combinazione favorevole. Prandelli, essendo del 57, compirà 55 anni il 19 agosto. Berzot, che era del 27, compì 55 anni nell'82 il 26 settembre. Beh, insomma, mi sembra un po' tiratina per i capelli anche questo, però se vogliamo credere alla legge dei quasi 55 anni, siamo qua per servirvi. Io sono abbastanza convinto che o la Spagna fin qui è andata un po' a schiuma frenata, insomma a velocità controllata, e quindi e il meglio conta di darlo e riuscirà a darlo nelle due partite che mancano, oppure la Spagna qualcosa con questo Portogallo rischia, perché il Portogallo ha, al di là di un fuoriclasse che è Cristiano Ronaldo, ha buoni giocatori disseminati un po' in tutte le zone del campo, nella difesa centrale, nella difesa esterna, metà campo, Moutinho, insomma ha buone risorse e ha buone pedine. Roberto Udine, buongiorno. Buongiorno. Chiamo in merito alle scuse che Pirlo dovrebbe al portiere Art per il cucchiaio. Uno. Lei va bene, poi il prossimo può bastare. Io volevo ricordare che il portiere Art è stato per primo a disturbare i tiratori, diciamo, azzurri, con delle risate, boccacce, linguacce, eccetera. Vabbè, e se andiamo indietro ancora nel passato, mi sembra che ci fosse un portiere che si chiamasse Grobeler, Grobeler, ecco, nella finale di Roma-Liverpool. Roma-Liverpool e anche Dudek in sì. Liverpool-Milan. Non mi sembra che questi portieri abbiano poi chiesto scusa ai tiratori delle squadre italiane per averli disturbati. Ma nel modo più assoluto, ciascuno fa il suo gioco, lo fa nell'ambito del consentito del regolamento. Anche noi nel nostro minimo, anzi nel nostro infimo, abbiamo fatto il nostro gioco con questo filone aperto ieri da quell'ascoltatore. Lei Roberto oggi ha seguito, da qui in avanti il primo che parla delle scuse di Pirlo non lo vedo benissimo. Massimiliano Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Innanzitutto mi ha fatto piacere rivederla in televisione su Sky, l'ho vista l'altra sera. E poi le volevo... Si cerca di organizzare il proprio futuro, visto che me lo stanno ristrutturando il futuro. Qua a Radio 24 si cercano alternative. Dica. Ho capito, comunque mi ha fatto piacere. No, niente, le volevo chiedere questo. Il discorso che abbiamo giocato con due giorni di differenza dalla Germania, sì. Io se non ricordo male, mi sembra che in tutti i campionati del mondo fino all'ultimo, anche i campionati europei fino all'ultimo che c'è stato, dai quarti di finale o giocavano le due squadre che si sarebbero dovute incrociare in semifinali lo stesso giorno o almeno con un giorno di differenza. Sì, al massimo c'era 24 ore. Volevo chiedergli questo perché a parte la nostra lamentela è stato abbastanza anomalo fare questa cosa in cui ovviamente si creano delle differenze che sono molto importanti. Ha ragione Massimiliano, ieri l'abbiamo spiegato ieri grazie a una cosa che ha messo insieme Franco Piantanito, perché io non sarei stato sinceramente all'altezza di capire questi snodi. Cosa è successo da quest'anno? Che hanno cercato di evitare l'incrocio, cioè di evitare la ripetizione di una partita già in semifinale e non solo in finale. Vi ho detto prima dei precedenti, no, di Germania, Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia, Ursuland, che sono state tutte finali degli europei dopo essere state partite dei gironi o addirittura partite inaugurale. Quest'anno può accadere, perché se la finale sarà, ripeto, Portogallo-Germania o meglio ancora Italia-Spagna, sarà la stessissima cosa. Ma quella eventualità di prima si poteva verificare anche in semifinale. Per evitare l'incrocio in semifinale, quest'anno hanno diluito, hanno fatto degli spostamenti e hanno giocato i quarti in questa maniera. Credo sia una formula sbagliata e credo anche che l'UEFA tornerà sui suoi passi, fermo restando che in ogni caso l'UEFA dovrà ristrutturare il calendario della fase finale, visto che dalla prossima edizione anche questo magnifico torneo attuale diventerà, non dico una schifezza, ma insomma peggiorerà di qualità, perché passerà a 24 squadre. Ora l'Europa 16 le regge, perché certamente sì, 16 di buon alto livello, 24 assolutamente no, ma sapete com'è, votano tutti e quindi il consenso si mantiene, come insegna Blatter per la FIFA, con la FIFA il consenso si mantiene accontentando il maggior numero possibile di federazioni, quindi dalla prossima edizione ci saranno anche gli ottavi di finale. Hassan chiama da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, io cercherò di essere un po' sintetico, dire due cose. La prima, su questa campagna mediatica nei confronti di un giocatore fondamentale di cui si tratta, di Balotelli praticamente. Fino a oggi, fino adesso, nel senso 3-4 partite che ha giocato, ha sempre onorato la maglia italiana. Quando vediamo che quando ha segnato Diamanti a rigore sia il primo a saltare, era gioioso. Però in Italia secondo me c'è una campagna mediatica molto atroce, nonostante che non ha fatto fino adesso niente di male. E invece un capitano della nazionale che si chiama Buffon, secondo me non doveva neanche essere lì, perché è un tesserato che ha fatto le scommesse e non ne sento parlare fino adesso. Non so se dobbiamo aspettare la fine dell'europeo o no. E poi anche il discorso delle 48 ore di biscotti, secondo me obiettivamente non aiuta il calcio. Grazie. Non sorvolo sul resto. Le 48 ore di biscotto non c'entra assolutamente nulla. Le 48 ore col biscotto, le 48 ore sono un dato oggettivo. Non è che la Spagna o l'Italia hanno detto gli altri hanno due giorni di riposo in più, facciamo una protesta ufficiale, ci incateniamo nel sottopassaggio facciamo, no, hanno semplicemente fatto rilevare quello che qualsiasi osservatore è in grado di fare anche autonomamente, cioè di vedere che giocano stasera Spagna e Portogallo e che il Portogallo ha giocato il suo quarto di finale di giovedì e la Spagna di sabato. La Germania ha giocato il suo quarto di finale di venerdì e l'Italia di domenica e rigiocano domani sera. Questo è un dato oggettivo e sinceramente non capisco cosa c'entri la parola biscotto, che speravo di non sentire più pronunciare almeno per questo europeo fino alla prossima volta almeno. Giovanni Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei Gigi. Due considerazioni, un dato di fatto: ha dimenticato tra i cucchiai il cucchiaio di Zidane alla finale. Che abbiamo vinto. Verissimo, vero. Fu un cucchiaio un po' più a rischio, perché andò a scheggiare l'incrocio dei pali, se non ricordo male. Poi una considerazione, secondo me l'artefice del momentaneo successo della nostra nazionale è Prandelli. Prandelli che ha cambiato la mentalità del gioco della nostra nazionale. E mi chiedevo, e magari lei se può darmi una sua opinione, se Prandelli avesse avuto la nazionale del 2002 della Corea, cosa avrebbe potuto fare? No, Giovanni, non lo posso dire io, non lo può dire Prandelli, non lo può dire Trapattoni, non lo può dire lei, non lo può dire nessuno. Questi sono davvero discorsi che non hanno senso, secondo me perlomeno. Sto guardando messaggi. Carino questo, ogni trasmissione ha gli ascoltatori che attrae e il conduttore che si merita, scrive Lorenzo da Savona, ringrazio molto, tenga duro ancora 3 giorni. Giovanni da Brescia abbiamo parlato, Enzo da Trento, buongiorno, dica. Buongiorno Garanzini. Dica. La volevo coinvolgere in una riflessione che riguarda Barzagli. Barzagli. Un giocatore che da 6 anni a questa parte, noi lo abbiamo conosciuto fondamentalmente ai mondiali del 2006 quando entrava a sostituire Nesta infortunato o Materazzi squalificato. Bene, Barzagli è un giocatore poco visibile ma molto apprezzato dai propri allenatori perché cambia il rendimento dei compagni di reparto. Nella fattispecie Bonucci ma anche Chiellini nella Juve si sono molto giovati del suo arrivo, tant'è che Conte per lui ha cambiato anche disposizione tattica passando a 3, esperimento che poi ha fatto anche Prandelli nella prima partita quando Barzagli non c'era, e ritengo Barzagli un giocatore molto più bravo di Chiellini come difensore centrale. Chiellini è un po' debole per esempio con i cross dai lati come abbiamo visto nella partita con la Croazia, mentre Barzagli è un giocatore che dà sicurezza, è molto bravo nel breve, pur avendo una struttura importante come Chiellini, e riesce a dare sempre un valore aggiunto dando riferimento ai compagni, cosa che, ripeto, Chiellini in particolare, ma anche Bonucci, non riescono a fare. La seguo in radio, buona giornata e grazie. Grazie a lei. Ho parlato con Enzo da Trento, non con il procuratore di Barzagli, vero? Di questo siamo sicuri. Ha ragione comunque, cioè, Barzagli quest'anno ha fatto molto bene alla Juventus, sta facendo molto bene in nazionale, il suo rientro dopo l'infortunio ha rassodato il reparto, il solo fatto che Prandelli, mancandogli Barzagli, abbia deciso che l'unica soluzione per rimediare a questa assenza era ristrutturare la difesa portando la 3 e arretrando le rossi, significa qualcosa, significa che da parte di Prandelli evidentemente, così come di Conte, c'è grande stima di Barzagli. Cioè, quando sei, adesso ne dico una un po' meno carina, ma insomma quando si è infortunato Chiellini manco gli è passato a capa di ristrutturare la difesa, ha preso una pedina e l'ha messa al posto di Chiellini, mentre invece l'assenza di Barzagli era più grave evidentemente da un punto di vista di reparto. Così l'ha valutata Prandelli e mi sembra che l'abbia valutata giusto. Simone Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Una curiosità, so che lei è anche uno storico del calcio, a me è capitato ieri sera di guardare Italia-Germania e ho notato un arbitraggio un po' più indulgente rispetto adesso. Simone, mi scusi, quale è stato strano? Oh mamma, Simone, quale Italia-Germania? Rivera blocca la palla su un contropiede della Germania, tipo parata a centrocampo e non... l'arbitro fischia il fallo ma non dà il cartellino. Ho sempre su una reazione di Rivera su un giocatore tedesco, in una reazione, proprio in un fallo di reazione, l'arbitro fischia il fallo ma non dà neanche il cartellino, quando potrebbe essere benissimo un rosso adesso. Simone, un rosso per quella sciocchezza lì, ma dai, ce l'ho presente, l'ho vista anch'io di recente. Comunque, il calcio ha avuto anche a sua volta, cioè ci sono sport, altre discipline, non faccio nomi, che vengono stravolte ogni anno da cambi o cambiate ogni anno da regolamenti, da nuove norme, eccetera. Il calcio è molto più conservatore e questa secondo me è la sua fortuna, ma questo non toglie che ci sia stata un'evoluzione nella storia del calcio di regolamenti e di applicazioni, cioè le regole di fondo sono rimaste quelle. Poi ci sono stati inasprimenti arbitrali dovuti anche in buona parte all'invadenza nel frattempo delle telecamere e quindi alla necessità di meglio tutelare situazioni di gioco che un tempo si potevano cogliere a stento dalle tribune, ma in ogni caso non avevano poi amplificazione successiva da immagini televisive, e adesso invece, come sappiamo, tutto è vivi sezionato. Però mi sembra che lei, è vero, il regolamento era diverso, adesso è stato inasprito, ma non è che fosse poi così tollerante come mi pare che lei abbia ricavato. Da Lonate Pozzolo scrive Roberto, dice: non so neanche io perché, ma sento di voler bene a Diamanti, così bene che a lui e solo a lui perdono quelle due braccia orribilmente tatuate. Ah, che triste deriva, i tatuaggi e le creste dei calciatori. Beh, bellissimi non sono, ma insomma, se ci siamo fatti andare bene Materazzi 6 anni fa e qualcuno l'ha anche eletto idolo personale, penso che si possa reggere pure Diamanti, che così a pelle mi sembra assai più simpatico. Lei, scrive Andrea Dolci, invece mi sembra un po' duretto con i tifosi bolognesi che trattano Diamanti come il Pelé del terzo millennio. No, oppure sì, perché non è il Pelé del terzo millennio, e soprattutto perché mi ha sorpreso il fatto che tanti tifosi bolognesi siano così sciovinisti, no? Così di bandiera nei confronti di un giocatore. Nel senso che io mi ricordavo Bologna, perché questo è il sintomo di provincialismo, per il mio. Poi il provincialismo innocuo, intendiamoci, non c'è nulla di grave. Però, insomma, Bologna la ricordavo soprattutto un pochino più aperta. Se però vuol chiudere il discorso, suggerisce sempre Andrea Dolci, chiede al primo tifoso che chiama quanti direttori sportivi hanno bussato alla porta del Bologna con un assegno tra i denti. Io uso sempre questo argomento con i miei amici interisti ogni volta che mi parlano di 25 milioni per Maicon o di 40 per Snyder, e devo dire che di norma funziona nel senso che li mette a tacere, insomma. Nicola Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno. A proposito di come la Germania sta preparando la partita con l'Italia, premesso che seguo la Germania su canali tedeschi ormai da un paio d'anni, da quando Genta era convinto ai mondiali del 2010 che sarebbe stata la squadra del futuro, mi permetto di dire che quella che per noi è un punto di forza, cioè la consapevolezza che ce la si può fare, per la Germania secondo me sta diventando un po' un punto di debolezza. Perché sembra quasi che loro abbiano nel destino, e questo lo dico leggendo i commenti o sentendo i commenti dei suoi colleghi tedeschi, la rivincita con la Spagna, e che l'Italia sia proprio solo un particolare, e fanno proprio fatica a prenderci sul serio. E questo secondo me è un peccato che hanno avuto anche nel 2006, quando amici che vivevano in Germania mi raccontavano di come la semifinale con l'Italia fosse un particolare per vincere il mondiale. E quindi io per questo sono molto molto ottimista per domani sera, a meno che questa Germania non sia di testa diversa dalle altre che ho visto recentemente, cioè che di questa consapevolezza abbia saputo fare un'arma di forza invece che di sufficienza nell'affrontare la partita con gli italiani, perché è sicuro che ma i commenti tedeschi è... Sì, i tedeschi sufficienti io, Nicola, non riesco proprio a... sarà che siamo prigionieri di certi stereotipi che arrivano anche da altri campi, da altre discipline, purtroppo anche da altre esperienze, ma i tedeschi superficiali faccio un po' fatica. I tedeschi sono anche molto più giovani di noi, e anche proprio in funzione di quelle 48 ore La nazionale di Löw ha un'età media di 24 anni e 11 mesi, facciamo 25 e facciamo prima. La nostra ha un'età media di 28 e fischia, 28 e 3-4 mesi. E questo qualcosina può, al di là del fatto che significa che il calcio tedesco è mediamente più giovane, ma insomma il calcio tedesco è notevolmente migliore del nostro, no? Si parte dalla situazione economica finanziaria, si passa attraverso gli stadi, attraverso la cultura, attraverso il rispetto, si arriva secondo me anche alla qualità del gioco, ma insomma questo è addirittura secondario rispetto al resto. Vediamo vediamo domani sera di fargli rimangiare simpaticamente tutta questa superiorità che indubbiamente appare il mio vantano. Emanuele Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una considerazione e una domanda. La domanda era, lei, visto che è più grande e di calcio ne ha visto sicuramente più di me, come mai, cioè, qual è l'ingrediente che porta la Germania in ogni competizione europea ad arrivare sempre in fondo, magari non sempre a vincere, però comunque è una cosa particolare, perché cioè, come il Brasile dei mondiali, comunque la Germania sia negli europei che nei mondiali riesce ad arrivare sempre in fondo. Mentre la considerazione, riferendomi ai numeri che diceva lei ieri sulle quattro squadre rappresentatrici del maggior numero di giocatori, no, in queste semifinali, mi colpiva il fatto che il Real Madrid è l'unica squadra che non rappresenta soltanto la propria nazione, ma anche quelle, cioè le altre. E questo forse secondo me può delineare il fatto che sia una squadra più fatta da campioni, nel senso ha un'abitudine più di comprare giocatori e poi formare una squadra. Differenza del Bayern Monaco, della Juventus o del Barcellona, che sono più, certo, i nazionalisti, ecco, diciamo così. Grazie. Che è assolutamente vero. Io quando penso a quanti giocatori del Real sono i leader nelle rispettive nazionali, per esempio in questa edizione, come dire, mi cavo il cappello forse lo tengo in testa il cappello pensando a chi allena quella squadra e ci convince ogni giorno che passa che è il suo lavoro che fa diventare grande quella squadra. Per carità, il suo lavoro inciderà, potrà anche servire a migliorarla, ma è un dato oggettivo che Cristiano Ronaldo è il leader del Portogallo, che Pepe e Coentrao sono due giocatori, se non chiave, sono due pedine preziose del Portogallo, che Özil e Khedira sono certamente i due perni del gioco tedesco, che Casillas, Sergio Ramos e Xabi Alonso il loro posto lo tengono nella nazionale spagnola accanto ai giocatori del Barça, che invece sono la maggioranza, e aggiunga che in questo elenco non c'è Benzema, che ha certamente giocato un europeo negativo, ma che io vorrei vedere in una di quelle squadre, Italia compresa, e poi vediamo che figura fa Benzema, se migliore o peggiore rispetto a quella che ha fatto nella Francia. La Germania è la terza squadra meno fallosa dell'europeo, dietro Olanda e Ucraina, però parliamo di numeri di falli assoluti, e Olanda e Ucraina hanno giocato solo 3 partite. La Germania viene subito dopo, ma ripartite ne ha giocate 4. L'Italia invece è la squadra che ha subito più falli dagli avversari, ha subito 68 falli in 4 partite, sono esattamente 17 di media partita, sono tanti. Vuol dire che non è semplicissimo fermare gli azzurri, evidentemente, no? Perché dopo 4 partite, ripeto, i numeri qualcosa di più significano. Gabriele, Bologna. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Ascolti, io volevo dare una diversa chiave di lettura per quanto riguarda il discorso del 2 giorni di riposo che hanno in più Portogallo e Germania rispetto a Italia, sì, e Spagna. Io ritengo che la regola che hanno fatto adesso di mettere praticamente le squadre che abbiano la possibilità solo di incontrarsi in finale, le squadre che si incontrano nel primo girone, sia giusta, ma non è da ascrivere a questa cosa qua. Il problema che si è capitato, secondo me, è da ascrivere al fatto dell'importanza che hanno le televisioni adesso, perché era sufficiente anche con questo regolamento mettere 2 semifinali al giorno, sì, invece che spalmarlo in 4 giornate, così come le semifinali, perché non scordiamoci che se andiamo in finale contro la Spagna o contro il Portogallo noi avremo un giorno in meno anche lì, vero, e con solo 3 giorni di recupero. Invece si poteva benissimo fare 2 partite le semifinali tutte nello stesso giorno e le 4 partite dei quarti farle in 2 giornate solo, 2 partite al giorno. Verissimo. Purtroppo il mio denaro, purtroppo per fortuna, perché vediamo tante partite. Purtroppo denaro, per fortuna, certo. Sono i diritti televisivi che comandano, certo. Affinché queste partite vengano poi spalmate. Concetto molto chiaro. Grazie Gabriele. Andiamo a Vicenza da Roberto. Buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Io vorrei parlare di Buffon e parlarne bene. Secondo me è stato il personaggio in campo, è bravissimo, no? È stato il personaggio decisivo nella partita con l'Inghilterra. Ha fatto una parata sulla linea che ci ha salvato all'inizio. Da grande portiere, non è fortuna, è bravura. E sta diventando un po' quello che è stato Zoff sempre in campo, fuori lasciamo perdere. Cioè il portiere essenziale, si ricorda la parata di Zoff in Italia-Brasile, quando Zoff ci ha salvato la vita in Spagna, quella sotto la pancia. Ecco, sono parate da grandissimo portiere che impara a stare in campo e sta diventando anche un bravo capitano, come lui. Va bene. Grazie Roberto, questo tolo un po' di scarico lo patisco sempre un po', però per carità va bene così. Gabriele, provincia di Padova, scrive: speriamo dunque, proprio ha fatto due righe di conti sui numeri che ho dato prima, speriamo dunque che nelle due prossime partite, e già qui c'è un augurio evidentemente perché la partita al momento è una, l'Italia aumenti la percentuale tra tiri in porta e gol fatti, perché attualmente è al 6.7%, effettivamente è una media bassissima. Mario ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, pronto? Dica. Sì, buongiorno. Senta, io non voglio dilungarmi in discussioni tecniche perché già ce ne fin troppe a giro. Volevo fare soltanto una considerazione gossip. Ma nessuno ha notato il vaffa di Barzagli a Montolivo quando ha sbagliato il rigore? Non è stato detto da nessuno, o non è stato notato, oppure per amor di patria è stata taciuta la cosa. Non lo so Mario, come ho già avuto occasione di dire prima, meno male che ce l'hai, meno male che è arrivato e ci ha dato questa informazione fondamentale. Io se anche l'avessi visto non mi avrebbe colpito, non l'ho visto giuro, ma non mi avrebbe colpito alla follia, non per amor di patria, ma perché chi se ne frega se qualsiasi tipo di reazione vagale un giocatore abbia in quell'istante. Ma ripeto, la sua notazione è preziosa assai, e quindi grazie di essere, non dico di esistere, ma perlomeno di essere intervenuto. Sembra ieri. 27 giugno 1984, atto conclusivo di un europeo che la Francia ha dominato, vincendo tutte le partite. Nella finalissima del Parco dei Principi, Platini e compagni sembrano però meno ispirati che in altre occasioni e devono per giunta affrontare una Spagna spigolosa, che concede poco. La svolta arriva al 57esimo, con un calcio di punizione di Platini, stavolta tutt'altro che irresistibile, eppure clamorosamente non trattenuto dal portiere Arconada. Dopo il vantaggio, la Francia riesce a gestire la gara senza patemi e nel finale trova anche il gol della sicurezza con Bellonet, lanciato a rete da Tigana, altra pedina preziosa della formazione allenata da Michel Hidalgo. Tra un mese esatto, oggi è 27 giugno, quindi esattamente tra un mese si aprono le Olimpiadi e stanno cominciando ad uscire alcune pubblicazioni, no, di quelle che ogni 4 anni fanno da richiamo, da introduzione se vogliamo, alle Olimpiadi. Oggi ve ne segnalo uno che è scritto, firmato da Gino Cervi con illustrazione di Marco Ceruti. Si chiama Storie a 5 cerchi, l'uomo molle e altri racconti. E è edito da Ed It, una casa editrice di Firenze, e se volete lo potete acquistare online sul sito appunto di Ed It, dove trovate anche un'anteprima in PDF, oppure su internet bookshop. Vi ripeto, Storie a 5 cerchi di Gino Cervi. Ha chiamato Andrea da Asti, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la sua trasmissione. Sì. Io volevo solo vedere la prestazione dell'Italia, il nostro passaggio del turno da un punto di vista non più esperto, neanche disincantato, però semplicemente non incensando tutto e tutti. Noi nelle ultime 3 partite non siamo stati in grado di fare un gol su azione che sia uno, e in tutte le partite abbiamo concesso occasione da gol, giocando meglio contro l'Inghilterra, però come sempre bisogna capire dove si fermano i nostri meriti e dove iniziano i demeriti dell'Inghilterra, che è stata veramente pietosa. Per carità, magari siamo stati bravissimi noi a impedir loro di sviluppare la loro mole di gioco, però a me è sembrata veramente, veramente poca cosa l'Inghilterra che abbiamo battuto. E se è vero che i precedenti storici con la Germania ci vedono molto favoriti per quello che è il passaggio del turno, è anche vero che, a differenza delle volte passate nelle quali era sempre stata la Germania a giocare supplementari prima di noi, questa volta siamo noi ad avere un surplus di partita, sì, è vero, sulle spalle. E poi io non capisco solo una cosa. E poi ancora? No, mi dica. No, prego. Ah, mi scusi. Rapido. Probabilmente probabilmente per incompetenza, non per voler fare polemica, ma perché non hanno giocato nei due giorni consecutivi il quarto di finale portoghese, il quarto di finale spagnolo e il quarto di finale italiano e il quarto di finale tedesco, così da avere per un giorno solo di differenza? Non riesco a capire se c'è qualche meccanismo astruso o se è semplicemente stata incompetenza da parte di Germania. No, adesso incompetenza fino a questo punto non credo, ho provato a spiegarlo prima, era per evitare, questa dislocazione era per evitare gli incroci in semifinale, anziché gli incroci, le ripetizioni di incrocio di squadre, cioè di partita già giocata anche in semifinale e non soltanto in finale, come invece può accadere. Vincenzo Palermo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io volevo ritornare a parlare di Buffon, non per parlare della sua indiscussa bravura, sì, ma per sottolineare che la sua presenza secondo me non è gradita a molti italiani, perché Buffon ha giocato 1,5 milioni di euro e non è stato un esempio. La nazionale va guadagnata non solo per meriti sportivi ma meriti morali, perché deve dare esempio ai giocatori, ai miei figli, ai suoi figli. Però Vincenzo non pensa che 1,5 milioni, mi scusi, supponendo che tutto questo corrisponda a verità, che poi venga documentato, che sia accertato eccetera, lei non pensa che 1,5 milioni bisogna anzitutto guadagnarselo, no? E poi una volta che uno l'ha guadagnato, se riesce a spenderli e a investirli meglio che in scommesso, siamo tutti grati a chiunque. E se no, voglio dire, ce ne facciamo una ragione, e rispetto a tanti altri che 1,5 milioni li dilapidano o li rubano, no? magari persone che hanno incarichi di responsabilità non siano molto peggiori di Buffon. Che dici? Pagheranno, ed è auspicabile che paghino per questo. Buffon non l'abbiamo premiato mandandolo in nazionale. No, non l'abbiamo premiato, l'hanno premiato, io proprio veramente non c'entro. L'hanno premiato perché è il più bravo portiere italiano, poi se c'è qualcuno che non condivide, fa una bella cosa magari, stacca, si sintonizza su un altro programma quando gioca la nazionale, rappresentata da quell'empio essere che è Buffon, che naturalmente è già colpevole, ripeto, in questo povero paese, prima ancora che esista a suo carico, un reale capo di imputazione, che ripeto, al momento assolutamente non c'è. Se parliamo di buon gusto è un altro discorso, se usiamo i suoi toni, sinceramente io credo che Rosa potrebbe fare, almeno per questi ultimissimi giorni, Rosa dovrebbe essere un pochino più severa nel filtro al centralino. Andrea dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io sono tra quelli che pensano che nell'ultima partita con l'Inghilterra, togliendo il fenomeno Cassano che era decisamente, mettendo Di Natale a metà tempo, a metà partita, si sarebbe vinto facile. Poi penso anche che Balotelli sia stato uno dei migliori in campo. Allora, io non l'ascolto spessissimo, purtroppo, quindi magari ne avete già parlato a sufficienza, però da quello che leggo e sento alla tele o che so io, sì, non riesco a capire perché tutti quanti parlano di un eventuale ingresso di Natale al posto di Balotelli. Questa è una cosa che francamente non si intende, e soprattutto con Cassano, che io adoro, in quelle condizioni e che non va in profondità, non si può segnare. Tra l'altro Balotelli in profondità non ci va, soprattutto se prova difese come quella inglese. Fa fatica, era in mezzo a 4 persone costantemente. Non so cosa ne pensa lei. Non so, giro i suoi quesiti a Prandelli, che certamente le sue riflessioni a Prandelli, che certamente ne farà tesoro. Sentiamo Montolivo a proposito di Germania. Credo che loro siano una squadra forte, senza dubbio. Sono una squadra di talento, sono una squadra collaudata. Sono 3 competizioni che arrivano in fondo, quindi hanno questo vantaggio probabilmente, però a questo punto, arrivati in semifinale, conta poco. Io credo che conti quello che si farà in campo giovedì, e noi abbiamo intenzione di vendere cara la pelle, abbiamo intenzione di mettere in campo tutto quello che abbiamo. No, sarà lo stesso, la stessa voglia di giocare, la stessa voglia di proporre il nostro gioco. Credo che dalla prima partita fino a quella di domenica siamo cresciuti anche in questo, quindi contiamo di migliorare ancora. Pirlo, a proposito di Germania, nel frammento che stiamo per ascoltare, magari con quel suo tono un po' diverso, no, rispetto a quello di Motorivo, che mi è sembrato bello propositivo. Sapete che il tono di Pirlo è quello classico, proprio da bandolero stanco, no? da bandolero spossato o sfinito forse. Poi però in campo, quando ti sembra proprio che non, anche quando ti sembra che non ne abbia più, quel guizzetto lo trova ancora, e insomma, e i guizzetti degli artisti. E sì, quando gli artisti giocano con te è sempre meglio che averci l'incontro. Pirlo verso la Germania. Sappiamo che possiamo farci. La squadra italiana è forte in tutti i reparti, l'ha dimostrato in questo europeo ma anche negli altri anni. Loro sono una squadra fortissima, noi uguale, quindi sarà una bella partita, come è giusto che sia, in una semifinale. Dopo la Russia sicuramente questa sconfitta ci ha fatto bene. Ci ha fatto tornare coi piedi per terra, abbiamo capito che dobbiamo lavorare tanto per poter arrivare a fare un buon europeo. Il bandolero stanco, ma anche il bandolero rauco nella fattispecie. Matteo Comes in regia, Franco Piantanini in redazione. A domani, buon pomeriggio.